Myself, then I cry. I'll be a crow that rise with the hand of in my face. They become feathers on my race. Rain covers my face. There are no saints that can make me feel good. Pain follows me down. It's a start. Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti Pulma Punches. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del CD Shooting Stars and Marshmallow, come ad esempio il primo titolo. Questo è il nostro primo singolo chiamato Myself. La vostra esperienza in studio di registrazione e quali idee musicali che hanno poi realizzato e dato vita a questo debut album? Beh, è stata un'esperienza molto intensa, soprattutto per me. Abbiamo cercato di incidere le stesse emozioni che abbiamo provato quando abbiamo iniziato a suonare le canzoni sul disco, insomma. Siamo partiti da 30 pezzi e siamo scesi poi alle 10 che abbiamo scelto. La prossima canzone per chi ci ascolta. La prossima canzone, la seconda del disco, si chiama Breaker. Silent mountain. In studio ancora con i Pullman Punches, recensioni, se ce ne sono quelli più interessanti e cosa dicono nel vostro album sia nel bene che nel male. Beh, recensioni vere e proprie non ce ne sono state perché l'album è uscito, cioè è arrivato fresco, fresco, oggi, ecco. E uscirà nei prossimi giorni. Ci sono però delle buonissime insomma, impressioni fatte da persone a cui abbiamo mandato disco prima, tipo Stefan Bowman, che proprio abbiamo citato prima, o altre persone come gli stessi No Kiss, che sono stati qua tuoi ospiti, certo, poco tempo fa. Prossima track si chiama Sometimes. Noi torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con i Pullman Punches. Voi restate sempre su Radio RCS. Inside.